Dialogo 27. Raccontò Jaber: un giorno Omar venne dall'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la bengloria, e disse: abbiamo udito da alcuni giudei dei racconti che ci piacciono. Che ne dici se ci serviamo di qualcuno di essi? Rispose: voi andate cercando la perdizione come i giudei e i cristiani. Io vi ho portato il Corano come un uovo fresco. Se Mosè fosse vivo, sarebbe uno dei miei seguaci.